La gente mette etichetta alle cose, così è più facile metterle in ordine dopo. Mette etichette alle persone, così sa cosa sono. Se ce l'hai scritto fuori, dentro, sembri meno vuoto. A me etichette ne han sempre messe parecchie. Adolescente arrabbiato, ribelle, depresso e poi rapper. E a te quante ne ha messe? E quante vuoi che ne mettano? Siamo tutti il riflesso di ciò che gli altri proiettano. Da me cosa si aspettano? Un disco rap, un disco originale, per restare hardcore ma un po' più commerciale. Io vi lascio fare, un'etichetta ci vuole. Accetto tutto di buon grado, chi offre il prezzo migliore? Ma tra l'odio e l'amore, cosa alimenta il motore? Se i miei pensieri prendessero forma, eclisserebbero il sole. Così li lascio nascosti, ma poi diventano mostri. E se li scrivo esorcizio, ma poi diventano i vostri. E lei mi odiava per questo, perché il più grande torto che puoi fare a qualcuno talvolta è essere onesto. E ogni testa è uno specchio, ogni specchio deforma. E il bisogno di una cosa spesso la trasforma. Come tra uomo e donna, la paura di restare soli sembra amore, passa come una sbornia. C'è chi sa tutto di me, e ha detto peste e corna. E ora sei tutto anche te, ma qualcosa non torna. Sono cazzi miei, non vedi gli altri per quello che sono, ma per quello che sei. Quante etichette ha messo e quante vuoi che ne mettano? Vogliamo tutti essere ciò che gli altri vorrebbero. Easy, non preoccuparti che sono cazzi miei. Non vedi gli altri per quello che sono, ma per quello che sei. Quante etichette ha messo e quante vuoi che ne mettano? Vogliamo tutti essere ciò che gli altri vorrebbero. Boom. E quest'oggi si inizia così. Bentornati ragazzi all'angolo del Tampiglio. Quest'oggi vi ho iniziato subito con una canzone, non con Ginko, non con musica ribelle, ma perché vi ho iniziato subito con la canzone che dà il titolo alla puntata. Etichette. Sì, ho deciso di fare una puntata proprio su questo concetto. E niente, vi ho trovato un po' di canzoni che ne parlano. Poi come al solito ve le spiego, vi do i miei spunti. Ma intanto di che parlo nello specifico? Nello specifico vi parlo di quello che dice qui Willy Peyote in questa canzone, nel ritornello. Ovvero, non vede gli altri per quello che sono, ma per quello che sei. Voglio finalmente parlare, ragazzi, di questa distorsione che c'è sempre. Cioè, di proiettare sugli altri le proprie opinioni. Cioè, le opinioni che si hanno su di sé. Ma non è così. La persona che tu c'hai davanti può derivare da qualsiasi tipo di opinione. Magari dal fatto che per lui gli alberi sono troppo cattivi. Tu non ti puoi opporre e dire, ma quella è la sua logica, è inutile che ti opponi. Quindi, ecco, questo messaggio mi interessava molto darlo e, come al solito, lo facciamo in musica. Iniziamo con Willy Peyote che lo dice proprio, ci chiama proprio la canzone, dice, la gente mette etichette, così è più facile metterle in ordine, mette etichette alle persone. E questo è quello che non dovremmo fare. Sotto una canzone di Albo che dice, ecco proprio nel ritornello, so voi non vi fidate di noi e dite che la meditazione non funziona. Cioè raga, capito? Pure contro chi medita toccando a mettere etichette, manco uno che medita viene lasciato in pace. Quindi è questo il senso. Perché? Perché vengono proiettate opinioni di sé sugli altri, non opinioni. Cioè non vengono mai date giudizi dal punto di vista della persona che voi state giudicando. Cioè viene sempre, capito, parte sempre da un pregiudizio, cioè dalle tue opinioni. Cioè nel senso che se per te, che ne so, chi non lava i piatti è disordinato, quello non lava i piatti è per te disordinato. Cioè questa è la tua idea di ordine. Cioè tranquillo, capito? Non serve che lo elevi a giudizio. E quindi niente, io volevo con questa puntata cercare un po' di andare ad abbattere questo concetto, questo giudizio così preconcettato, e E lo faccio con chi? Lo faccio con Flox, ragazzi, che ha fatto una canzone che si chiama The Words, che dice: te non te ne è mai fregato un cazzo delle parole, a te ti piace solo sentire il ritornello, il suono. E dice: no, sì, se io il mio lavoro di musicista è fare una canzone, io quello che ti voglio comunicare sono le parole. Non è mica il sonetto. Me la faccio sentire, perché secondo me questa è comunicativa anche con il suono. Una di quelle che i suoni sembrano proprio comunicare quello che dice a parole. It's not just about the music, so don't get me wrong. I could sing, you're so sexy, baby. I want your body, lady. You think that's my destiny? Well, maybe. Well, just in case it's not, I'll give you my best shot. My job is to make you listen to the words and why not read this sound. Are you listening now? 'Cause if you're not, I'm turning this off. Because you never, ever give a fuck about the words, 'cause you're so fed up listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect your ears and the rest. And you never ever give a fuck about the words, 'cause you're so fed up listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect your ears and the rest. Still talking to you, what? You think I got it all wrong? That it's just about the music, the words make it sound like a song. I should sing, can I come in your mouth? And a good fucking cup is a dead one. To make people listen to my charming song. Well, I'm afraid it's not gonna be my best shot. I just write down some simple words and sing them as a sound. Are you listening now? 'Cause if you're not, well, you don't have to turn it off. Because you never ever give a fuck about the words, 'cause you're so fed up listening to love songs, ego tongues. Yes, I'm doing my best to respect your ears and the rest. And you never ever give a fuck about the words, 'cause you're so fed up listening to love songs, ego tongues. Lo sapete che dice lì, raga? Ego tongues, cioè lingue gonfie di ego, cioè lingue di ego. Lui dice: tu vorresti ascoltare le canzoni d'amore, ego tongues, oppure parole egoistiche, no? E invece dice: te tocca ascoltare a me, che lo faccio per lavoro. Infatti lui dice: I'm doing my best to respect your ears and the rest. Dice: io potrei cantare le canzoni d'amore tipo You're so sexy lady, se l'avete sentito all'inizio. Però dice: io sto facendo il meglio per rispettare le tue orecchie e tutto il resto. Quindi, are you listening now? Ti dice: hai capito mo? Se no io spengo. Quando fa quella pausa, vi dice questo, vi dice: are you listening now? Because if you're not, well, you don't have to turn it off. Se non ce l'hai fatta, spegni. Perché a te non ti è mai fregato un cazzo delle parole. Questo è quello che ci dice Flox. A me ci introduce appunto quello che stavo dicendo, che è questo giudizio sommario. Non è che poi sia alla fine, cioè se tu vuoi dare un giudizio su una cosa, intanto abbiamo capito prima che potresti già non farlo, ma e giudicarti quindi da solo, dire io chi sono, io che faccio, perché faccio questo. Non ti preoccupare degli altri, questo vabbè già sarebbe buono. Però ecco, se tu vuoi giudicare qualcun altro o qualcosa anche, io su questo sono super super d'accordo. Se tu vuoi criticare qualcosa, giudicare qualcosa, lo puoi fare. A me quando mi dicono ma giudicare è sbagliato, non è vero. Perché giudicare è sbagliato? Io posso dare un giudizio, tipo: per me le penne nere sono meglio delle penne blu. Questo è un giudizio. Se ho offeso qualcuno, ho sbagliato. No, semplicemente non bisogna dare giudizi fatti apposta per fare del male a qualcuno. semplicemente, ecco, bisogna dare giudizi quando sono fondati. Se no, altrimenti è un giudizio sommario, così, tanto per. Cioè, quindi tu non stai effettivamente criticando quella cosa o quella persona. È un giudizio sommario. E quindi ci abbiamo la canzone. Giudizio sommario. Ogni barista è parte coi migliori uffici, come quell'estate in cui sono caduto dalla bici. Sono rimasto lì da solo, anche se avevo tanti amici. E sono ancora fermo lì, sul ciglio della strada. Come chi aspetta notte fonda alla fermata. Se non mi hanno mai convinto quelli, vada come vada, che son quelli che se perdono Dio faglia la rubata. Io no, voglio che vinca la mia squadra, ma ne ho scelta apposta una che perdesse sempre, perché in fondo la vittoria è molto sopravvalutata, e chi non è capace a perdere di indole è un perdente. Perché voi visto da fuori sono io l'anomalia. Ho rinunciato a questa vostra liturgia, con l'orgoglio di essere sbagliato, il trauma di essere diverso. Ma fare come voi io non ci riesco. Perché poi visto da fuori sono io l'anomalia. Ho rinunciato a questa vostra liturgia, con l'orgoglio di essere sbagliato, il trauma di essere diverso. Ma fare come voi io non ci riesco. Io non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri. Ed è una vita che provo a mimetizzarmi, ogni volta riesco meglio. E ogni volta devo peggiorarmi, ma non voglio confrontarmi, non perché ne abbia paura. Sembro debole se dubito in mezzo a gente sicura. Non voglio vendicarmi, non è nella mia natura. Cammino con sto peso che influenza l'andatura, perché è un fatto di cultura. L'educazione sabauda va ben oltre Gianduiotti e Bagnacauda. È la causa del silenzio e del senso del dovere, della nausea e del senso di colpa che viene dopo il piacere. Forse cortese, no, freddo e formale. Mi faccio troppe domande, perfetto e normale. Ho la testa troppo pesante per fare musica leggera, e amo troppo la verità per fare carriera. Perché voi visto da fuori sono io l'anomalia. Ho rinunciato a questa vostra liturgia, con l'orgoglio di essere sbagliato, il trauma di essere diverso. Ma fare come voi io non ci riesco. Perché poi visto da fuori sono io l'anomalia. Ho rinunciato a questa vostra liturgia, con l'orgoglio di essere sbagliato, il trauma di essere diverso. Ma fare come voi io non ci riesco. Perché c'è poi appunto, regà, un giudizio sommario dato su una persona. Quello diventa un'etichetta. Cioè, se... come dicevo prima, cioè se per te una persona, che ne so, non è buona perché fa un gesto che tu non sei d'accordo, non lo puoi vedere come cattivo, perché per te è così. Cioè, è troppo semplice. Quello è un giudizio, e poi tu magari inizi a comportarti anche di conseguenza con quello che pensi. Questo succede spessissimo. Cioè, tu intuisci una cosa in un modo, per te è così sacrosanta, dai un giudizio a quella persona che morirà con quella etichetta addosso, sei cattivo, e ti ci comporti di conseguenza contro, tipo, vabbè, ma perché tu sei cattivo e quindi fai questo? Questo è quello che io reputo come giudizio, e quindi quando viene giudicata una persona, per me è questo, dirti che tu fai male qualcosa che fai, non è un giudizio, è un'opinione, potresti essere semplicemente un incapace, cioè quindi non essere capace a fare una cosa e qualcuno te lo dice. Non è che perché qualcuno ti va in contrasto è un giudizio ed è sbagliato. Non è questo. Giudicare è sbagliato se tu lo fai in fede di principi, appunto, che ti immagini tu. Cioè, se tu fai questo e affibbi a una persona un'etichetta solo perché, boh, secondo te è così, poi alla fine che succede? Succede che ognuno non vedi più le persone per quello che sono, ma per quello che ti immagini tu. Come se tutti ci avessimo una sorta di personaggio e, che ne so, seguissimo un ruolo preciso, no? Come se fossimo una sorta di imitatori di noi stessi. Io mi salvi dalle commedie, dai cosplayer, da cosplayer forse, no? Solo quando gli conviene, da politici sempre più. Ci famo la cover di noi stessi da soli. Finché non candideranno loro direttamente, da femministe suprematiste, VS, le teorie degli incel, la lotta di gente, da polemiche, sfattori e doppiatori che per darti ruoli devono sapere con chi scopi, dalla F-word, la N-word, che non cancellano il concetto. Esci sto politicamente corretto. Sì, però com'è che prima erano tutti? Oh!

può andare via, sì. Può andare in un posto qualsiasi. Milioni di chilometri miriadi. Di posti come questo dai fidati. C'è un proverbio cinese che dice prenditi bene. L'impiegato del mese sorride al capo in catene. L'immigrato alle prese con l'accoglienza. Stop alle nostre frontiere, forse sparare conviene. Le piccole e le medie imprese. Largo le tue larghe intese. Bilancio le entrate e le spese, tutti con troppe pretese, tipo alla fine del mese. Tranquilli che non è una gara, vai impara se conti le attese. Tipo quel cingalese con le rose sotto la neve, ti vede a tuo agio tipo sbirri in borghese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo è cinese. C'è un lavoro di merda, il tuo capo italiano. Tanto ormai lo sappiamo, è palese. Tutto il mondo è paese. Equità, ce ne fosse la metà, saremmo già da un pezzo. Beh, qui a parte la l'intromissione di Willy, che come ben sapete su questi temi è forse uno dei principali. Comunque niente, che vi stavo dicendo? Stavamo tornando su questo tema delle etichette, e se vi cito qualcosa, per citarvi qualcosa dal testo, dai testi, tipo ad esempio quello di Marrakesh, che ti dice: puoi essere qualcuno che non sei. Perché questa esigenza, raga? Io questo non ho mai capito. Cioè, questa esigenza in realtà è l'origine del male. Cioè, non puoi avere un istinto che ti dice di comportarti in un modo diverso da come sei. Cioè, come andare da un gatto e dirgli di bau. Cioè, se quello è nato come gatto, dirà miau o meu, in base a alcune circostanze. E quindi basta, cioè non si può andare contro la propria natura. Quindi accettarla è tipo l'unica cosa sensata da fare. E quando quindi i ragazzi delle persone vi giudicano, in realtà stanno riflettendo su di voi la loro incapacità di accettarsi. Quindi li dovete pisciare, raga. Non dovete sentirvi a disagio se qualcuno vi giudica, raga. Perché quello è frustrato. È lui che ha dei problemi, se no una persona che sta bene con se stessa non c'ha bisogno di giudicare un altro, non lo farebbe mai. Quindi appunto alla radice c'è questa incapacità. E ragazzi, ho una canzone che non solo ci azzecca, ma forse anche un po' vi sorprenderà, perché non siamo più con la lingua italiana, ma andiamo in inglese e andiamo sul metal. E questa canzone, ragazzi, famosissima canzone dei Metallica, Unforgiven, non so chi lo sa, ma parla proprio di questa cosa. Dice: io non vi posso perdonare. Never me. Never free, so I dub the Unforgiven. Mai libero, mai me stesso, non vi posso perdonare. Questo schema, questo principio di giudizio crea delle situazioni di sofferenza per la maggior parte delle persone. Perché appunto, perché essere stringenti coi giudizi tra persone che hanno i nostri stessi disagi? E questa canzone, raga, ve lo dice chiaro e tondo, in inglese però. His will I'll take away, yeah. questa cosa di vivere rinchiusi e non riuscissero a perdonare, questa dicono i Metallica, dicono tutto quello che ho sentito, tutto quello che so non è mai uscito fuori da quello che mostravo. Capite ragazzi quello che si crea? Si crea questo blocco con questi giudizi. Le persone non si sentono più libere di esprimersi. Io personalmente cerco di abbattere questa cosa, questo blocco, esprimendomi liberamente anche quando mi viene fatto notare che potrei disturbare. Però non accetto mai che l'espressione non libera sia la risoluzione. Perché se no, ragazzi, di che stiamo parlando? Cioè, se diciamo vogliamo combattere certe cose, no? Quindi magari in ambienti sociali, no? In un ambiente sociale non si può limitare l'espressione, non possiamo pensare che ci sia qualcuno bravo e qualcuno sbagliato, perché sennò non siamo in un ambiente sociale, siamo già nell'ambiente della società, quella che già viviamo. Non siamo in un centro sociale che fa qualcosa di differente. Non sono le attività che lo... ma appunto la libertà di espressione. Era questo quello che le persone che li hanno fondati lottavano. Però noi adesso li fondiamo e dentro, tra 15 persone, litighiamo perché io c'ho più ragione. Capito, raga? E questo vengono comunque chiamati centri sociali poi. Quindi alla fine questo schema di giudizio non riesce a cadere neanche in un posto che si presenta come posto dove questa cosa non succede. Proprio perché è radicato e sta a noi sradicarlo. Impegnarci per non vedere le persone per quello che ci immaginiamo noi, ma provare prima di giudicarle a capire la loro storia. Oppure accettare, non possiamo mica capire la storia di tutti, ma semplicemente accettare di non avere un'opinione fondata, avere un'impressione. Questa è una cosa che a me mi dà sempre al cazzo. A me fanno passare come giudizi cose che io do come impressioni. Cioè, per me, io ti posso dire, tu mi sembri stupido, che ne so. Se tu ti offendi, sei solo tu, debole, sbagliato, non io, aggressivo. Perché io ti sto dando un'impressione. Ho detto tu sei stupido. Cioè, se a me... oppure quando dicono, ah, guarda che ho fatto. Questo è il momento peggiore per me. Quando ti chiedono un parere su qualcosa che hanno fatto, se vi risponde sempre che bello. Ma perché? Cioè, perché non ti posso esprimere liberamente quello che penso? Perché ti devo dar ragione a prescindere per farti sentire bene? Questo in realtà, ragazzi, non è qualcosa di sociale. Cioè, non è qualcosa di buono per qualcuno. Questo è negativo, eh. Negativo per la persona che lo subisce, perché sia per quello che lo fa. Quindi andare ad impacchettare tutte queste situazioni non è che sia così vantaggioso. Se vuoi cambiare qualcosa, in realtà non puoi partire da questi pregiudizi. Se tu vuoi veramente dei cambiamenti, e quindi devi partire dalla terra che calpesti sotto i piedi. Questa è la canzone che abbiamo sotto, che appunto ci insegna, o comunque almeno comunica, che devi partire dalle cose tue personali per cambiare. Ma anche qui, evita il giudizio, evita di dire questo è giusto, questo è sbagliato. Parti da te, tu chi sei, cosa fai, perché lo fai, cosa ti piace, cosa non ti piace, quale persone frequenti, quale persone non vuoi frequentare, quali contesti ti piacciono, quali non ti piacciono, come ti piace passare la giornata, cosa mangi, perché, cosa bevi, quando, dove. Queste sono le domande che ti devi fare. Quello che fanno gli altri, lo devi lasciare perde. Lascia perde. Ok? Questo l'abbiamo capito, ma in realtà il mio messaggio non è questo, ragazzi, perché questo è abbastanza banale. Il messaggio è dall'altra parte. Se venite giudicati, non lo vedete come qualcosa di negativo, perché dall'altra parte c'è una persona incapace di giudicare, che dà un giudizio sommario sulla vostra personalità, basato su fatti totalmente personali, cioè suoi personali, non vostri, non oggettivi. Cioè, capito? Io ti dico che tu sei stupido perché, non so, magari ti metti le magliette blu. Per me chi si mette le magliette blu è stupido. Tu ti puoi sentire stupido. Tu ti puoi sentire vestito male se una persona a cui non piacciono le magliette blu ti dice che cazzo va in giro con sta maglietta blu. Lì sbagli tu. Fine. Non sbaglia quella persona, sbagli tu a dargli valore, a dargli retta. Semplicemente. E se per non morire con tutti i rimpianti come i Metallica, regà, che dice quel vecchio si prepara a morire pieno di rimpianti, ma quel vecchio sono io. Lo young man della canzone è già un vecchio con dei rimpianti, regà, capito? Cerchiamo di uscire da questo cazzo di schema, o no? o per dire che io sono più bello di te dobbiamo creare epoche di fraintendimenti, di dissenso e di lotte, solo per non accettare che un altro faccia una cosa migliore di noi o semplicemente carina, non lo so, non lo so perché. Però andando avanti, in realtà lo so perché avevo già preparato la canzone del perché, anche se Marra ha detto non c'è cultura se non c'è appropriazione culturale, se non c'è cultura non c'è appropriazione culturale. Qui regà si può ricostruire il mondo da questa frase. E poi un'altra cosa dice, quindi mi devo trovare un'altra canzone sottofondo perché non voglio smettere di hablar. If I had a magic wand, vi metto una di Eminem, regà, che è una bomba. Adesso non ve la metto perché non c'entra niente col tema, più o meno, oddio, c'entra non troppo. Però è una bomba, regà. Una delle... cioè, veramente bella. E niente, tanto ve la lascio nella playlist linkata. Come sapete sul sito c'è il link a tutto. Tra un po' vi metto pure i giochini, così mentre mi ascoltate potete giocare, ne so, a basket con mouse. Quando capisco come si fa. E niente, vi dicevo, purtroppo su questa frase ci devo andare a fondo. Non c'è cultura, cioè non c'è... se non c'è cultura, non c'è appropriazione culturale. Allora, noi viviamo in Italia una mancanza di... Ah, io vivo in Canaria, c'è ragione, Erchino. Non vivo più in Italia, dai. E lì in Italia si... Oh, ecco, è cascata la palletta di Natale. Dura 3 giorni. No, scusate, vi dicevo... Se non c'è una cultura, come ad esempio noi in Italia non abbiamo una cultura da tempo, voi direte, che vuol dire questa frase? Vi dirò la mia definizione di cultura. Per me la cultura è quando gli uomini si tramandano il modo di vivere. Fine. Per me non c'è cultura su altre cose. A me, quando mi dicono quello è un genio, ha inventato questo, che ne so, il pacchetto di gomme che sì, per me si può sparare. Cioè a me non me ne frega un cazzo di quello che ha inventato. A me, se uno mi dice ho capito come gestire le emozioni negative, allora io appizzo le orecchie. È quello il tizio che io ascolto. Quindi la cultura si basa sull'esperienza umana, perché se no di che stiamo a parlare, ga? Le opinioni della gente, vedete, è questo che ritorniamo, è questo che intende Marra. Se non c'è la cultura, l'opinione della gente diventa cultura. Cioè io posso dire qualsiasi stronzata e verrò ricordato. Cioè vedete i musicisti che vanno in giro, no, raga? I vari Blanco, Sferi e Baste. Però, cioè, non per andare contro di loro come sempre, è solo quello che rappresentano come persone. Io non c'ho niente contro, non li conosco, quindi non dirò mai quello è una merda. Però quello che rappresentano, rappresentano persone senza talento, osannate come se fossero dei dei. Cioè questa è la cosa su cui sono contrario. Non di certo la loro musica o la loro vita. Però ecco, così non si può, cioè nel senso c'è una cultura, c'è un senso, c'è un modo, c'è un comportarsi bene o un comportarsi male. Non è che semplicemente tutto si rimette all'opinione della gente. Infatti io sono dovuto emigrare perché funzionava così e io non sono d'accordo e questa cosa non accetterò mai, mai, e farò casino in ogni contesto in cui vengo compreso che succede questa cosa, perché il senso alle cose non lo dà l'opinione di qualcuno. Così. Ho detto, se tu vuoi questo privilegio, io lo do, perché secondo me non è vero che soltanto chi ha dei titoli può parlare. Per me chiunque ha qualcosa da dire, però deve essere un'opinione fondata. Cioè lui, tu stesso che dai un'opinione, devi essere in grado di dargli un fondamento da solo. Non ti basa su dato che è giusto salvare le balene, io ho fatto associazione sulle balene, sono buono. No, Semplicemente no. Hai seguito un tuo ragionamento, un tuo iter mentale. Hai fatto una cosa che hai pensato tu. Fine. Poi può essere anche inutile. Cioè, non pensare che perché l'hai messa in atto tu sia chissà quale bomba. E quindi mi unisco a Marra in questo appello. E poi un'altra cosa, raga, che dice a fine puntata. Cioè sì, a fine puntata, quello lo so io, mi sa. A fine canzone dice che possiamo essere, oggi possiamo essere gay, trans, bianchi, neri, gialli, ma non possiamo ancora essere poveri. I poveri sono ancora emarginati. Quindi a me di tutto sto buonismo che mettete, me ne fotto. Perché non è vero. E vi faccio partire la canzone di Johnny Marsiglia che parla con la sua coscienza, raga. Perché purtroppo per ottenere questo tipo di concezioni che chiamerò spirituali o anche solo morali, bisogna chiacchierare con la propria coscienza ed ascoltarsi. Anzi, questo mi ci prendo un altro pochetto di tempo, perché in tanti mi dicono, quando io magari mando questi messaggi, mi dicono, sì, ma come si fa? Tu dici, facile ascoltare se stessi. Regà, mai detto che è facile. Una delle cose più complicate al mondo. Però te lo devi accollare. Cioè, semplicemente, se tu accetti, cioè se tu lo rifiuti, perché è difficile. Sei solo un debole. Cioè, i deboli non mettono in atto cose difficili, no? Cioè, quelli forti le fanno. Quindi, semplicemente, è questo il motivo per cui non tutti in questo mondo arrivano a questa coscienza. È perché è difficile. Non perché qualcuno è baciato dalla fortuna e qualcun altro no. Qualcuno si encarga, si direbbe in spagnolo, di fare questo viaggio nella coscienza e di ascoltarsi anche prendendo crepe. Quindi quando quelli poi arrivano a una concezione superiore delle cose perché si sono ascoltati, quelli che non hanno fatto questa cosa devono fare pippa. Non devono dire ma tu, perché quello diventa un giudizio sommario. Tu stai dando un giudizio su una cosa che ti immagini in faccia a una persona che non se la immagina, l'ha vissuta. Quindi lì, se tu non capisci di essere l'allievo e non il maestro, pecchi solo di umiltà. Cioè, di arroganza, appunto. Di mancanza di umiltà. Quindi, scialla. Però tu critichi quella persona come se fosse lui arrogante. Perché parte da un punto di vista superiore. Però tu non consideri che quello è il punto di vista superiore. Ce l'ha davvero. Sei tu che non lo vuoi accettare perché non te regge, crede che qualcuno abbia fatto qualcosa che tu non sei in grado di fare. Ma questo lascialo su di te, non lo riversare su quella persona. Anzi, magari quello ti può dare una mano su come puoi affrontare questo processo. Quindi fare questa cosa ti rende solo una persona meschina. AJ, che mi racconti? Mi riconosci? Sono la parte di te che non controlli, l'unico sguardo da cui non riesci a nasconderti. Come va oggi? Sono anni che insegui gli stessi sogni. Prego, accomodati. Ho qualche domanda per te, non vado via finché non mi rispondi. Come faccio che sudo freddo ogni volta che ritorni? Sto lottando per rimanere concentrato, non vedere la tua ombra, non sentire la tua voce. Non sviare, rispondi, mi ho chiesto come va oggi. Va meglio, sono passati giorni peggiori, lacrime versate fanno pozze. Piangere non basterà a risolvere le cose. Io quando scrivo sono autentico, me stesso sono vero. Forse è vero, ma non è che prendi questa roba un po' troppo sul serio. Dai, un po' di leggerezza, e la tua vita dai a chi vuoi che interessa. Beh, ho messo tutto in questo disco, non c'è romanticismo. Un altro disco su di te, figlio del narcisismo. Davvero pensi che la chiave sia la trasparenza? Un disco come questo non giustifica l'assenza. Fanculo, tu vivi dentro la mia testa da tempo. Hai residenza, non sento la tua mancanza, ma avverto la tua presenza, lo so. Tu non sei la mia coscienza, sono la tua insicurezza, vivo nella tua testa. Se io nego la tua esistenza, neghi la mia presenza come tutti, lo so. Tu non sei la mia coscienza, sono la tua insicurezza, vivo nella tua testa. Vivo nella tua testa, yeah. Non posso più concentrarmi sul tempo perso, sugli errori che ho commesso o sulle cose che non posso cambiare, non ha alcun senso, è la cosa più lontana dal successo. Che poi il successo quanto vale, se chi lo raggiunge lo vive male. Bene, la mia testa vuol dire pace, e chi la raggiunge la pace, oggi che ognuno combatte una guerra individuale. Guerra fredda, siderale, e questa è la mia guerra personale, ma la bandiera bianca non è da considerare. Quante volte ti ho quasi convinto a mollare la presa, frega un cazzo, fino a quando la passione è viscerale. Non c'è resa, il mio livello è ancora alto e sono ancora più esigente con me stesso. Per questo la mia parabola è crescente. Nah, rimani niente, non conta niente, se un piccolo gruppo ti mette tra i 5 migliori di sempre. Guarda, sono ancora in ballo, bro, scendi dal piedistallo. Non sei un piragna solo perché stai nuotando, è quello che stai facendo, l'ha già fatto qualcun altro prima e meglio. Svegliati, non sei un genio. Non ho mai detto di esserlo, e mi sentirei in difetto se lì fuori ci credessero. I rapper si autocelebrano, i crediti di accredito. Lo faccio perché cerco la serenità che merito, sto cercando la via. È colpa mia, sono io che nutro la tua invidia, la tua gelosia. Devo mandarti via, sono anni, mesi, giorni che vivo nella tua testa, ma non metti mai in ordine. Beh, il mio obiettivo è farti vivere nel casino, nel delirio. Ti starò sempre vicino, accompagnando il tuo respiro. Sono io che decido, o convivo con te o ti uccido. Perché tu non sei la mia coscienza, sono la tua insicurezza, vivo nella tua testa. Se io nego la tua esistenza, neghi la mia presenza come tutti lo so. Tu non sei la mia coscienza, sono la tua insicurezza, vivo nella tua testa. Vivo nella tua testa. Agire da piccolo uomo non aiuta il mondo, non c'è nulla di illuminante nel rinchiudersi in se stessi, così che le persone intorno a noi si sentiranno insicure. Noi siamo nati per rendere manifesta la gloria che c'è dentro di noi. Non è solo in alcuni di noi, è in tutti noi. Appena ci liberiamo dalla nostra paura, la nostra presenza automaticamente libera gli altri. L'ha detto chiaro e tondo, no? Quindi manco aggiungo niente, regà. L'unica cosa che dico a tutti quelli che ve giudicano, regà, o che ve cagano il cazzo, ve stressano, dedicategli a sta canzone. Capisco perché la gente per la strada ce l'ha sempre con me. Che va fatto non lo io so. Io non capisco perché mi guardano male se la piano con me. Cosa dovrei fare? Io non capisco perché stanno imbruttiti e ce l'hanno con me. Non si fa così però. Io non capisco perché ce l'hanno tutti con me. In mano niente arma, in tasca niente bamba. Che tu ci credo, no, lo sai che io ci credo al karma. Quello che dà il mondo indietro te rimanda. Se promuovi odio, solo odio indietro torna. Ce l'ho un po' più de calma. Non dico che devi essere saggio come il body d'arma. Fumati qualcosa che provenga dall'Olanda. Fatte una trombata seria come Dio comanda. Vedrai come ti cambia. Io non capisco perché la gente per la strada ce l'ha sempre con me. Io non capisco perché mi guardano male se la piano con me. Io non capisco perché stanno imbruttiti e ce l'hanno con me. Io non capisco perché ce l'hanno tutti con me. Troppe facce tristi, troppe relazioni tese. Me ne accorgo soprattutto quando torno dal paese. Vorrei che la gente come fosse più cortese. Invece qua peggiora mese dopo mese. Guarda che non rubo, guarda che non cibo. A differenza vostra sono tranquillo e manco pippo. Se mi guardi male veramente non capisco. Sbrocca quanto vuoi, tanto me ne fisco. Io non capisco perché la gente per la strada ce l'ha sempre con me. Che va fatto non lo so. Io non capisco perché mi guardano male se la piano con me. Cosa dovrei fare? Io non capisco perché stanno imbruttiti e ce l'hanno con me. Non si fa così io però. Io non capisco perché ce l'hanno tutti con me. Non sento manco ciò che dicono, vedo che gridano, tutti intesiti con le facce che te sfidano. Quanto sono brutti nelle macchine quando guidano, ma è una volta che per sbaglio te sorridono. Non voglio mica litigare appena esco di casa, non voglio avere davanti la tua faccia stressata. Non so se stai in ritardo, c'hai una rota bucata, ma tutta sta tensione mi fa fa una risata. Voglio sorrisi e più gioia per strada, voglio un domani in cui l'amore dilaga. Chi sguazza nell'odio c'è il rischio che annega. Questo è il messaggio della villa. Voglio gioia per strada. Voglio un domani in cui l'amore dilaga. Chi sguazza nell'odio c'è il rischio che annega. Questo è il messaggio della villada. Voglio sorrisi e più gioia per strada. Voglio un domani in cui l'amore dilaga. Chi sguazza nell'odio c'è il rischio che annega. Questo è il messaggio della villada. Questo è il messaggio della Villa Ada. Chi sguazza nell'odio c'è il rischio che annega. Regà, lasciateli sguazzare nell'odio. Pure questo è il messaggio del Tampillo A. Lasciateli sguazzare nell'odio. Ma che vi frega se qualcuno vi dice che non siete buoni a fare qualcosa? Non ho mai capito sta cosa. Qualcuno? Ma chi è quella persona? Chi cazzo è? Perché se chiunque ti dice una cosa ti offendi? Questo meccanismo lo devi togliere. Non puoi pensare che ognuno che dà un giudizio sulla persona è sempre valido. Cioè, alcuni, come vi ho detto, dicono cose a cazzo, quindi è inutile che ci rimani male. Ci rimane male per giudizi di persone che non sanno giudicarsi neanche da sole. Anzi, come vi dicevo, la probabilità alta che facciano questa cosa perché non si sanno giudicare da soli. Quindi vi dico, ragazzi, siamo arrivati qui alla fine di questo puntatozzo. Ci siamo fatti un bel po' di discorsi e un tema un po' scomodo, però ecco, ho trovato un po' di canzoni che mi ispiravano e quindi l'ho voluto fare. Io vi rimando come sempre alla pagina sul sito Roz Radio, R-O-O-Z, radio, R-A-A-D-I-O, e perché lì appunto ci stanno i link, c'è il link alla playlist, perché ecco, se qualche canzone ti è interessato, ti è piaciuta, fatela risentire, tanto io non me ne accorgo, tranquillo, e quindi questo però mi farebbe molto piacere, anche se così, se qualcuno andasse a sentire le canzoni mi farebbe piacere. E in più ci sono anche i miei link social, se vuoi entrare sulla chat WhatsApp, lì noi ci mettiamo un po' di cose in più, tipo io a volte magari faccio dei sondaggi, oppure pubblico le puntate prima, oppure chiedo a loro cosa vogliono sentire nella prossima puntata, quindi lì nella community WhatsApp trovi questo, è una possibilità quindi di interagire. Non so se la sposterò su Discord questa community, se ci riesco. Poi c'è il link alla pagina Instagram, sempre della radio, del mio programma particolarmente, e lì vengono fatte le storie, ti avviso quando ci stanno le live, oppure quando è registrata, ti metto delle pillole musicali e quindi tanti altri consigli musicali, approfondimenti sulla musica, magari dei video dei concerti e tante altre cose. E poi ci sono i miei link personali, Linktree, perché io non ti rimando proprio a tutti i link, ma almeno al canale YouTube, perché lì faccio tante discussioni su questi temi, ma anche altre cose tipo gli streaming di Magic o anche le ripetizioni di economia. Se vai all'università a una facoltà di economia troverai la microeconomia, la statistica, la macro spiegata finalmente in un modo decente che un umano può digerire. Detto questo, ragazzi, è veramente tutto, vi saluto tutti, saluto Gianluchino, saluto tutti gli ascoltatori, saluto la community WhatsApp e vi lascio con una canzone, ragazzi, molto molto antica, che parla di, cioè del punto di vista del cantante, ma cioè del punto di vista dell'artista, ma dal punto di vista del cantante. Lui è Francesco Guccini, penso, non lo scoprite da me, ha una fama abbastanza alta, però regà, soffermatevi cazzo su sta canzone, proprio su ogni parola che dice, perché lui vi spiega dall'altra parte del palco come la vede un tizio che è famoso. Voi pensate che è tutto quello è tipo Dio, ma lui ve lo dice da dietro. Dati cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato

netta questa, cioè anche qui, capito, manca poi il giudizio alla persona, no? Come se un musicista fosse una cosa di per sé. Questa canzone è contro l'etichetta che si dà al musicista. Si chiama L'avvelenata perché è avvelenato, e c'ha ragione. Perché non devi dare, cioè, se una persona capace di creare canzoni, perché gli metti un'etichetta? Perché è una cosa sola? E questa canzone lo dice proprio. Vedi, lui, quello che c'ho sotto dice: vendere no, non passa fra i miei rischi. Non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi a me cosa mi frega di assumermi la bega di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi. Oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se sono di umore nero, allora scrivo. Quindi, come vi dicevo, cioè lui scrive quando è d'umore nero, cioè nel senso, perché un cantante per te è una cosa, cazzo, una sorta di jukebox dei canzoni, non è un essere umano. Questo era il senso, il fondamento della puntata, che però poi si può estendere anche ai giudizi a chiunque. Ecco, sentite questo pezzo poi. Mo non lo potrebbe dire. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino. L'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Mamma mia, lo amo, raga. Cioè, vedete secondo che dice? Dice, lui fa una lista di tutte le etichette, no? Tipo genio, fascista, negro, ebreo, comunista. Cioè, come tanto ti dice, tutti ti giudicheranno, sì. Per ogni persona tu sarai una cosa diversa. Quindi lasciali fare. Infatti lui poi ti dice tutti sti giudizi, però poi alla fine, dove sto io? Sto qua a beve vino con un po' d'angoscia e voglia di bestemmiare. No, tutta sta gente, me ne frego, cioè nel senso, non me ne frego, però dici poi nel concreto, voi mi stai a giudicare questo, quello. Però io nel concreto è questo che sto a fare. Ma cazzo me ne frega a me di te, di quello che pensi te, tanto. Dice, non posso mettermi qui, capito, a provare a soddisfare e compiacere chiunque, perché non esiste questa cosa. Cioè, mi piace far canzoni e bere vino. Poi alla fine spiega il tutto, eccola. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto. Tan, tan, tan, tan, tan. E con questa, ragazzi, vi saluto davvero con lo stesso augurio che fa lui, lo utilizzo anch'io. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare, e a culo tutto il resto. Bella, ragazzi, vi voglio un really bene. Buona serata, buon chiusura di giovedì e buon inizio di weekend. Bella a tutti, ragazzi.